30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. In quello che appare come il primo contatto tra i capi dei due stati finora senza relazioni diplomatiche da oltre 30 anni, il presidente iraniano Ahmadinejad ha chiamato il neoeletto presidente egiziano Mohamed Morsi per invitarlo al vertice dei paesi non allineati in programma a Teheran a fine agosto. Intanto il segretario di Stato americano Hillary Clinton annuncia: il 14 luglio sarò al Cairo per un primo contatto. Cari ascoltatori, buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera dunque parliamo di Egitto, un grande paese, un caposaldo della cultura arabo-islamica, un punto di riferimento culturale per il mondo intero, indipendentemente dalle religioni e dalle provenienze, un paese che è stato al centro dell'attenzione e ultimamente in particolare per quel cambiamento ai vertici, alla presidenza, per la prima volta dunque un presidente eletto democraticamente, un presidente che, come a volte accade nella storia, come dire, dalla storia emergono delle sorprese, almeno per una parte del mondo. Quindi un leader dei fratelli musulmani che emerge e assume la guida del paese. Si tratta di Mohamed Morsi, per molti di noi un oggetto sconosciuto, ma non per tutti. Questa sera parliamo dunque di quello che accade ed è accaduto in questo grande paese del sud del Mediterraneo, e lo facciamo attraverso anche l'aiuto di uno scrittore, professore e romanziere che racconta una parte di questa grande storia attraverso la storia di un gruppo di persone. Ve lo presento, si chiama Yunis Tafwik, grazie di essere con noi innanzitutto. Grazie a voi. La ragazza di Piazza Tahrir, l'ultimo romanzo di Yunis Tafwik, per chi non lo conoscesse, è un giornalista, scrittore, professore universitario di nazionalità irachena, vive in Italia da molti anni e come dire, si è tuffato attraverso questo racconto proprio nel cuore di questa grande trasformazione, la Piazza Tahrir. Allora, un primo commento, Tafwik, su questo grande cambiamento. No, io ho selezionato due pezzi di notizia che dicono da un lato dell'attenzione dell'Iran e dall'altra della notizia, appunto, gli Stati Uniti attraverso il segretario di Stato, relazione chiave tra i due paesi, il 14 luglio al Cairo. Sì, io direi che in questo caso avranno più fortuna gli americani con Morsi. Anche perché oggi, se andassimo a guardare bene, la guerra è tra due blocchi, quello sciita guidato dall'Iran e quello sunnita guidato a questo punto dall'Arabia Saudita, in seguito c'è la Turchia e poi non può mancare l'Egitto. Certo che i rapporti tra l'Iran e l'Egitto non sono stati assolutamente eccezionali, soprattutto dopo la caduta dello Shah e l'esilio in Egitto e addirittura la partecipazione armata realistica, vera, durante la guerra Iran-Iraq a sostegno di Saddam Hussein. E dunque i rapporti sono peggiorati ai tempi di Mubarak, soprattutto con l'escalation che abbiamo avuto tra Iran, America e i paesi del Golfo. È vero che Ahmadinejad sta cercando di recuperare terreno, ma questo non significa che con l'invito al vertice dei paesi non allineati ha recuperato l'Egitto. L'Egitto di Morsi, anzi, sarà sempre più verso i paesi arabi, verso l'Islam sunnita, verso la Turchia, verso l'Arabia Saudita, che non verso l'Iran, dico come inclinazioni. Insomma, un lavoro che inizia, un lavoro che richiederà comunque grande impegno da parte dei nuovi attori. E quando dico nuovi attori, certo fa un po' sorridere, perché definire nuovi attori la Fratellanza Musulmana, che è uno dei partiti classici, storici, addirittura fonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, è sbagliato, mi rendo conto, ma nello stesso tempo è un nuovo attore laddove per l'Occidente c'è l'oggetto nuovo, un presidente appunto di un partito di matrice religiosa alla guida di quello che per la nostra generazione, per chi ha 50 anni e dintorni, è il paese che è stato il grande alleato degli americani. Certo, oggi Morsi si trova tra le mani una patata bollente, possiamo chiamarla così, anche perché io non lo invidio assolutamente. Risanare l'economia, la cultura, il turismo, la situazione in generale anche a livello socio-politico del paese non è così facile. Oggi Morsi si trova con un Egitto veramente all'estremo, e la crisi economica mondiale, ma la crisi anche interna, con tutto quello che è successo ai tempi di Mubarak, il buco è talmente grosso che il rattoppo si trova tanto piccolo, per cui Morsi è un ingegnere laureato negli Stati Uniti d'America a Pennsylvania, per cui con un dottorato di ricerca addirittura, per cui non è una persona sprovveduta o l'ultimo, come quasi tutti i fratelli musulmani, sono persone laureate, sono persone preparate, ma non a livello politico però. E dunque Morsi a questo punto cercherà di avvalersi a politici di esperienza e secondo me sceglierà a capo del governo o il Baradei oppure addirittura Amr Musa, l'ex ministro degli esteri ai tempi di Mubarak, capo della Lega Araba, è proprio perché ha bisogno di tecnici. I tecnici vuol dire che dovrà poi formare un governo di coalizione nazionale che raggruppa tutti, compreso anche i copti e i laici, e dunque non sarà il partito o la fratellanza, l'organizzazione dei fratelli musulmani, come lei giustamente ha detto, sono i nuovi attori, perché è vero che sono presenti sulla scena politica da 60 anni, ma non hanno mai avuto l'opportunità di governare, per cui anche nel Parlamento avevano una rappresentanza minima, poi nell'ultima edizione dell'ultimo Parlamento di Mubarak erano rimasti fuori addirittura. Ecco, nella mia esperienza personale, la prima volta che ho incrociato, che ho intervistato degli esponenti dei Fratelli Musulmani, addirittura mi ricordo nella metà degli anni Ottanta, intanto erano al bando e li si incontrava di nascosto in un Egitto in cui l'associazione tra questo movimento e i movimenti terroristici era molto vicino. Ma ricordo perfettamente che mi aveva colpito a suo tempo di avere capito come la forza di questo movimento fosse nell'attività sociale. Loro erano vicini alle persone, loro aiutavano la gente fragile e da lì hanno costruito un successo. È vero, quello che pochi giornalisti occidentali osano a dire, ma quello che noi conosciamo e sappiamo, che vediamo quotidianamente, che i Fratelli Musulmani come organizzazione erano molto per il sociale, per il mutuo soccorso, per cui hanno lavorato nei sotterranei, ma chiamiamolo così tra virgolette, nella classe più degradata della società egiziana, e da lì dove hanno attinto i loro voti, per cui la classe borghese, aristocratica, addirittura di attori famosi, cantanti, ricchi, eccetera, non hanno votato ovviamente Morsi, per cui tutti avevano votato Shafiq, perché c'è sempre questa paura che poi avevano usato i vecchi regimi, cioè tutto ciò che viene dall'Islam è cioè terrorismo, bavaglio e così via. Sì, infatti, però noi dobbiamo dargli la possibilità, perché dobbiamo ricordarci che dopo la Seconda Guerra Mondiale chi ha guidato la politica in Italia era la Democrazia Cristiana. Sì, questa è una cosa che devo dire mi ha sempre fatto sorridere quando ho avuto degli interlocutori del mondo arabo che appunto competenti mi hanno fatto notare come non solo l'Italia, appunto la Democrazia Cristiana, ma i grandi partiti tedeschi, i grandi partiti popolari austriaci, insomma l'elemento religioso all'interno della politica fa parte della nostra cultura. Ecco, è un Islam politico oggi, mi scuso, un Islam politico oggi ci vuole, mi spiego il perché. Non perché sono tifoso, però perché manca l'ideologia, mancano i partiti. Ora, per colmare il vuoto spirituale e politico, ovviamente questi partiti di matrice religiosa hanno più fortune in questo momento che non altri. E questo non solo nel sud del Mediterraneo. Torniamo tra un momento con Unistaff Weekend. Chiederei fin d'ora, ci spostiamo nella grande piazza, ed è questo credo il valore del suo ultimo lavoro, La ragazza di Piazza Tahrir, che ho letto come dire, di getto, con piacere, e dove ho trovato l'unione tra quelli che sono appunto i grandi temi, la Clinton, Israele, l'Egitto, con le persone vere, con la quotidianità, una storia di una ragazza, ma di una famiglia nella tempesta della trasformazione. 30 minuti in cronaca. Ancora un saluto, cari ascoltatori, bentornati a 30 minuti in cronaca. Dunque, l'Egitto. L'Egitto è un paese, oltre che essere affascinante, centrale nella storia, nella cultura del nostro mondo, del nostro unico mondo, direi, è un paese in movimento, un paese in trasformazione. Da quando ormai nel 2 dicembre fa, di fatto, la Tunisia si mette in movimento attraverso drammatiche proteste, la grande primavera del sud Mediterraneo prende corpo, prende forza e massa, ma è nel momento in cui investe l'Egitto, un vero e proprio caposaldo, il paese con i numeri, la popolazione, la storia più importante, si parla davvero dell'esplosione della primavera araba. E come vi ho anticipato, è proprio in questa grande piazza, la piazza della liberazione, la piazza Tahrir del Cairo, che si svolge gran parte di questo racconto, di questo romanzo, l'ultimo lavoro di Younis Tafui, che ringrazio di essere con noi questa sera. Allora, la grande piazza, e dicevo, una famiglia, una ragazza naturalmente protagonista della vicenda, ma un'intera famiglia, un'intera società che fa i conti con un mondo nuovo. Sì, io ho scelto proprio di partire dalla questione sociale, cioè dalla famiglia, dal microcosmo, perché la rivolta innanzitutto è stata contro certi tradizioni ancora fossilizzati, per cui per cambiare la società bisogna partire ovviamente dalla famiglia, e questa ragazza che si ribella contro alcuni aspetti della sua famiglia, ma trova poi alleanza nel padre, il poeta ex rivoluzionario, ma la prigione le aveva spezzato le ali, come si dice, le gambe, per cui non riusciva a reagire nemmeno contro la moglie, però trova nella figlia quello che poi lui non è riuscito ad essere. E questo poi si sposta nella piazza quando la ragazza decide di scendere in piazza. Io ovviamente mi sono ispirato a un fatto realistico, in quanto una ragazza egiziana di 17 anni aveva iniziato attraverso social network nel 2008 a invitare il popolo egiziano a scendere in piazza in sciopero, e aveva ottenuto 800.000 adesioni in quel momento, per cui ovviamente poi è stata perseguitata, eccetera. Per cui quello per dimostrare anche che la primavera araba era la primavera delle donne, delle ragazze, dei giovani, quelli che sono scesi in piazza, di cui noi non abbiamo se non poche notizie, per cui dobbiamo ricordarci quelle immagini di quelle ragazze col velo o senza, che combattevano insieme con le pietre contro le pistole e le mitragliatrici, per cui i lacrimogeni. Allora, questa resistenza nei confronti del regime significa una resistenza nei confronti di tutto ciò che è corrotto nella società. Ecco, Tafui, che una cosa che lei ha appena detto e che io ricordo appunto da una fresca lettura dal suo libro è questo fatto: ragazze con il velo e senza, all'interno di quella piazza, lei lo descrive bene, si incontrano parti di un paese che normalmente non avrebbe comunicato, cioè quelle ragazze che la sua protagonista definisce vestite all'occidentale, quelle con un atteggiamento, diciamo, almeno formale, più legato a quella che è appunto la tradizione familiare, e si scoprono molto simili, addirittura uguali nell'aspirazione comune. Anche questo è in qualche modo una rottura rispetto a certi schemi che almeno qui dal nord del Mediterraneo ci fa vedere in un certo modo le ragazze vestite all'occidentale, in un altro modo le ragazze col velo. Tutto questo si perde. Infatti, perché il velo è una questione di scelta, una questione identitaria, però questo dimostra che non è poi un obbligo alla fine, le ragazze sono libere di portarlo o meno, e così poi si trovano anche a fianco a quelli che non lo portano, ma che cercano comunque la libertà attraverso la lotta dentro la piazza. Perché ovviamente quello che io volevo anche far sapere, far conoscere, che la nuova generazione cerca una nuova identità, che la nostra società costituita da circa 60%, al contrario di quella occidentale, di giovani addirittura al di sotto dei 25 anni, quasi disoccupati, la maggior parte di loro sono studenti, però hanno capito che il progresso non viene se non attraverso la rivolta pacifica, che poi il regime l'ha portata allo scontro violento. Loro sono scesi in piazza, come erano anche i tunisini, come avevano iniziato addirittura i siriani, per cui gridavano pacifica, pacifica, cioè la loro rivolta è semplicemente rivolta di protesta. Ma poi, come abbiamo visto, che tutti i regimi caduti ormai e quelli in prossimità di cadere hanno usato lo stesso metodo, la violenza contro la non violenza. E quello poi ha degenerato alla fuga di Ben Ali, alla dimissione di Mubarak e alla caduta di Saleh, alla caduta di Gheddafi, e poi in prossimo futuro anche porterà la caduta di Assad in Siria. Perché oggi non è più possibile lasciare spazio alle dittature, non è più possibile vivere sotto dittature, e i nostri giovani non accettano più certi sistemi, non accettano più la corruzione, non accettano più di essere di non esistere, di non essere considerati e addirittura di essere calpestati nella loro dignità. Ecco, una grande trasformazione è avvenuta. A volte si tende a, come dire, a essere anche scettici, magari giustamente, quando si è cominciato a parlare dei ruoli, del ruolo dei social network nella primavera araba. C'è stato qualcuno che, o forse tutti noi, abbiamo detto: attenzione, non è che stiamo esagerando. In realtà l'impatto è stato davvero enorme, soprattutto per questa generazione di senza voce, che è entrato in contatto in maniera prepotente, in maniera capillare con il mondo esterno, ma soprattutto il mondo interno. Quello che lei racconta anche nella ragazza di Piazza Tahrir è appunto una giovane donna, un'adolescente egiziana, che scopre di avere pensieri condivisi con la sua generazione, e questo forse è davero magico da un certo punto di vista. Con la sua generazione, ma non solo nel mondo arabo ed islamico, perché poi ha l'amica Costanza in Italia. Gli amici del resto del mondo. Dobbiamo ricordare che i nostri giovani, sia in Tunisia sia in Egitto, avevano ricevuto aiuti e sostegni da tutto il mondo a livello tecnologico, attraverso il social network, e i tunisini avevano dato una mano molto forte agli egiziani, soprattutto durante l'oscuramento della rete, per cui avevano addirittura raggirato i programmi, eccetera. Per cui è un fatto talmente di grande impatto che questo strumento usato dai nostri giovani per rovesciare i regimi, che oggi in Occidente invece si usa per raccontare del tempo e della spiaggia, io a questo punto invito i giovani occidentali, soprattutto italiani, di ritornare ad usarlo nel senso giusto, cioè di creare nuove opportunità di lavoro, nuova rivoluzione sociale, ma ovviamente intendo a livello simbolico, pacifico, ma devono cambiare le cose attraverso questo strumento che abbiamo in mano e che è molto prezioso, molto importante. Insomma, si chiamano social network, dopo tutto, forse qualche ragione ci sarà. Io ricordo ancora una volta Yunis Tafwik, la ragazza di Piazza Tahrir, barbiere editore, costa 12 euro e vi porta in un viaggio davvero, se vogliamo, in un contesto che è fisicamente piccolo, perché poi direi che le sue pagine sono tra la casa di una famiglia, la grande piazza e le strade che sono nel mezzo, e nello stesso tempo nel pieno di un viaggio contemporaneo di una grande società come quella egiziana in trasformazione. Siamo partiti dal nuovo presidente, che naturalmente osserveremo con la curiosità, con l'interesse, consapevoli che ci sono molti temi aperti, uno dei quali è quello del rapporto con Israele. Insomma, i prossimi giorni ci racconteranno nuove parti di questa storia. Grazie a Yonis Tafuk per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie mille. Naturalmente 30 minuti in cronaca torna ogni sabato dalle 19:30. Con questo abbiamo concluso. Un ottimo fine settimana a tutti voi. A presto.